A dizem la canzun la nasa Napoli, e certamente gamminga tutti tor, Sorrento, Margellina, tutti popoli, gli avran cantal me un milion de vol. Mi speri che si offenderà nessun, se parlo Monciccin anche de nu. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, ti t'adora e piscinina, ti te domine di là. Sotto ti se vive la vita, se sta mai qui mai in ma, canta in tutti lontan de Napoli se me, ma pe venia in chi a Milan. Adesghe la canzone de Roma magica, de Nina e Cupolone e Rugantin, se sbatten in del teve roba tragica, esageremme par un cicinin. Sperem che venga minga la mania, de mettes a cantà malano mia. Sotto ti se vive la vita, se sta mai qui mai in ma, canta in tus lontan de Napoli se me, ma pe venia in chi a Milan. Si veni senza paura, non ve slungarem la mano. Tutto il mondo le paese a sen d'accord, ma Milan è un gran Milan.